quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Roma nuda, scusa se perdo lacrime per strada, ma che vada, fa finta che so gocce derugiada. I vostri consiglieri comunali di Roma sono coinvolti. Almeno finché tarsi, dormi e vedrai che manco mi sentirai. Sì, il sindaco Marino è stato eletto anche con i voti delle Scandalo Madre Capitale. Non me lo dite, non sono disperato. Orfini, Roma è tant'è che voi. No, la racconto a te, vuoi perché sei in grado di capirla. Non vi e se tu guardi nel... Era una donna che mi ha rovinato. Scusa, ma sai, sai una metafora, la mucca deve mangiare. No, questa metafora io glielo dico sempre al mio amico, mi dice non mi rompe il c***o, perché se questa è la metafora lui già non si è fatto. Quindi... Roma nuda. Guarda che ha detto Butti che amo canto. Ma io guarda, ieri mi ci ha mandato dove hai detto questa cosa, tu non hai capito? Mi ci ha mandato, dice non ti può rispondere così amico Salvatore, perché noi già fatto. Basta, sta così all'angoletto desta strada. Chissà che addormi qui domani o non mi inventi un'altra vita. Ah, che bello leggere i giornali. Altro che nuda Roma, cioè, se magnavano tutto, se magnavano tutto, la mucca da mungere prima deve mangiare. La battuta più gettonata nell'intercettazione era: c'è uno stipendio anche per me. Mille al mese. Ma il Tedor 5%. Or 10. Ma se ne dà 5 va bene, ma contento. Tutto così. Vado randaggio in qualche vicoletto. Marino dice: sono la vittima di tutto questo. È il sistema precedente. Libero lo soprannomina Ignaro Marino. Mentre il Fatto Quotidiano titola così: Roma va sciolta per mafia. E buon venerdì a tutti, eh. Non me voi dite, non so disperato. E allora, cari ascoltatori, questo è 24 mattino, è venerdì! È venerdì! Era una donna che m'ha rovinato. Allora, il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666. Ve lo chiedo così: secondo voi Roma va sciolta per mafia? Così, pam! Pare che Renzi abbia detto ai suoi: non possiamo far cadere Marino, perché in questo momento, se il Movimento 5 Stelle trova uno appena appena credibile e lo candida, si prendono il comune di Roma. E quindi tenere duro, come ha detto un dirigente PD, Marino è una pippa politicamente, però è pulito e quindi ce lo dobbiamo tenere bene. Citato dal Corriere della Sera, anonimo, anonimo romano. Se magnavano tutto sugli immigrati, sui rom, su tutto. All'angoletto desta strada. Vabbè, vedremo in rassegna stampa poi chi hanno arrestato, consiglieri un po' bipartisan, consigliere regionale, due del PD, uno di Forza Italia, uno consigliere regionale di Gramazio, insomma, di tutto. Ma attenzione signore, perché un giorno non è un venerdì qualsiasi. Intanto voglio salutare i miei ospiti, saluto Lorenzo Nespoli in redazione e Peter Mescapè in regia. Voglio salutare intanto il nostro avvocato. Io che sono Carletto, l'ho fatta nel letto. Carletto. Che ve la ricordate, Carletto? Carlo Rienzi. Buongiorno, buongiorno. Esperienza terribile questa di Roma, l'ho avuta io in questi giorni, poi vi racconto. Cioè, attenzione, notizione da Rienzi, l'avvocato Rienzi, presidente del Coda Consigliere. Però Rienzi, non è una giornata qualsiasi oggi, lo so. No, non lo sai. Non lo sai perché, non lo sai. Domani è il D-Day, 6 giugno 2015. Aurora Lussana si sposa! Sposa ovviamente con uno della casta, Nicola Molteni, deputato della Lega, capito Rienzi? Aurora, buongiorno, buongiorno. La casa integrata al parlamentare, buongiorno a te caro Milan, un caro saluto all'avvocato, l'avvocato ci serve sempre, e sì, soprattutto un caro saluto a tutti, ruspisti e non. Ruspisti e non, oh, eccolo lì, mamma mia, sta cosa delle ruspe. Allora, Rienzi... Cos'hai contro la ruspa? No, ma... Ci sarà qualche maschio che ascolta Radio Padania che guida la ruspa? Vabbè, ma adesso a noi interessa sapere se tu sei nervosa, il vestito è tutto a posto. No, sto lucidando la ruspa perché arriverò in chiesa con la ruspa. Arriverai in chiesa con la ruspa. Rienzi, dica qualcosa come avvocato. C'è un patto prematrimoniale veloce che dovrebbe fare subito con... Ah, è vero. Ma sì, cercare di tenere separati i beni. Subito. Avvocato, io non ho nulla se non il mio buon nome, l'unica posseggo. Allora non separare i beni. Vabbè, comunque il momento è molto solenne. Intanto apriamo il Parlamento, caro Peter Bescapè, perché noi abbiamo, cara Aurora, scomodato delle persone abbastanza importanti, se mai ci vediamo per te lo abbiamo fatto, per te. Allora vogliamo iniziare da una, la più solenne, la più importante. Abbiamo chiamato il Quirinale, abbiamo chiesto per favore al presidente Mattarella se ci faceva un cadeau, questo saluto è per te, per te Aurora. Desidero ringraziare molto il presidente Squinzi per l'invito così cortese che mi ha rivolto, e colgo l'occasione per esprimere le mie felicitazioni ad Aurora Lussana. Le auguro di intrattenere col futuro sposo relazioni di univocità, condivisione ed amicizia, e che domani al banchetto nuziale padano, e che girurlo, viva l'Italia! Questo non lo so se sarà possibile. No, temevo ci fossero gli usperi menoctis. Ma che dici? Ma assolutamente. Vabbè, ma non sono finite qui le sorprese, poi magari ne sentiremo qualcun'altra. Prima però vi voglio allora parlare di Roma, dai, Aurora, di quello che vuoi. Tanto Roma, e poi che poi adesso Rienzi ci deve dare una notizia. Tanto non è che a Milano abbiamo avuto mani pulite, però te lo chiedo, Roma va sciolta per mafia? Credo di sì, credo che Marino se ne debba andare, perché lo dice bene chi è di Roma, non io che non abito a Roma, quindi insomma che romani possono votare. Roma era una lupa, è diventata una vacca. Ah, così proprio, una vacca. Loro dicono che, poi ripeto, non si dice mucca ma si dice vacca. Chi conosce gli allevatori lo sa. È vero, si dice vacca. Una volta anche un allevatore che abbiamo invitato mi ha detto si dice vacca, non mucca. Vedi, tu Aurora, perché mungi le vacche? No, perché io ho origini contadinesche, ho queste ascendenze, quindi un grande rispetto per gli agricoltori. Vabbè. E mi hanno insegnato che non come bambini che dicono mucca. Mucca, vacca. Carlo Rienzi, sei contento di vivere in una vacca? Cioè, nel senso... No, io sono contrario alle strumentalizzazioni politiche, credo che debba essere sciolto il Comune di Roma perché c'è troppa corruzione, ci sono tante persone per bene. Voglio raccontare rapidissimamente la nostra esperienza, una causa fatta per il famoso parcheggio di Piazzale Clodio, sotto il muso e il naso di tutta la magistratura. C'è un bellissimo spazio, sopra c'è un bellissimo parco abbandonato. Noi a un certo punto abbiamo detto: ma che cavolo è sta cosa abbandonata? Ci siamo accorti che nel 2004 il Comune aveva deciso di fare un bellissimo parco e un parcheggio a pagamento. Se non che a un certo punto arriva una lettera della regione che dice: no, non si può fare più, non c'è qualcosa che non va. Il Comune ci scrive e dice: no, ma la regione ha detto che non si può fare più, c'è qualcosa che non va. L'Agenzia del Demanio, che è la proprietaria di tutta l'area, dà in concessione questo parco a una piccola società per 18.000 euro l'anno. E qual è questa società? Una cosa che produce milioni all'anno solo di parcheggio e non si fa più niente. Arrestano il dirigente dell'Agenzia del Demanio che ha dato questa concessione e adesso vediamo chi è che ha scritto la lettera della regione, chi ha scritto la lettera del comune. Era tutta una pastetta, se mangiavano noi tutto in queste condizioni. Se mangiavano tutto, vabbè, ma va sciolta quindi per mafia, dice. Sì, sì, va sciolta per mafia, perché, credo, però, purtroppo di sì. Però Marino dice io anzi mi volevano mettere vice Coratti, che è stato arrestato del PD, Mirko Coratti, e lui dice io, che al Fatto Quotidiano dicono tutti che io di politica non ci capisco niente, infatti non ci capisco niente, ma io capisco di esseri umani. E quindi Coratti perché lui è chirurgo, è chirurgo e quindi Coratti l'ha aperto, l'ha visto dentro. Vabbè, ma dai Aurora, ma tu sei felice per queste disdette romane, questo sfascio di Roma, cioè, no, oppure ti no, tutto il paese deve essere disgustato, sai da che cosa? Dal fordismo della carità. Noi abbiamo trasformato l'immigrazione in un enorme business e adesso abbiamo capito le accuse borghesi delle classi dirigenti contro il popolo, quelle accuse di razzismo, no? Che l'elite al potere no? rivolge al popolo, le accuse di razzismo. Ecco cos'era, il loro business, il loro fordismo della pietas e della carità. E oggi c'è una bella vignetta in apertura del Corriere, non so se hai avuto modo di vederla. Eccola qua. Guarda, geniale. Immigrati, l'organizzazione per l'affluenza, c'è un barcone che arriva tutto pigiato, tanti, e l'altro con tanti, si passa la mazzetta dietro. Sì, c'è gente che... ho capito, ma non è che siccome c'è gente che specula sui migranti, il risultato, vedi, allora non bisogna farli arrivare perché sennò siamo un popolo di corrotti. Questa è la verità. Dice oggi il grande doge di tutti i veneti, Luca Zaia? Passa con l'Italia africanizzata. Eccola, quindi, Rienzi, ti senti in un'Italia africanizzata, lo ha detto Zaia, il grande doge. Com'è che è il grande doge? Rienzi, un'altra strumentalizzazione politica. Se non ci fossero gli extracomunitari, noi saremmo proprio i nostri anziani. Sarebbero completamente abbandonati, quindi fatela finita. Certo, non è che li possiamo pigliare tutti noi, ma se non abbiamo la forza in Europa di metterci a dire ognuno, ogni paese deve pigliare tot, e prenderli e darglieri, consegnarglieri. Ma non ho capito che fanno, sono dei pacchi postali. Per ripartire l'onere, perché non è che siano. Forse adesso ce la facciamo. Guarda, allora, siccome tanto fra un'ora mi confesso, lo dico: l'Europa se ne fotte, non piglierà mai un mezzo profugo, vero, presunto. Ma tu sei di quelli, posso fare quello che voglio, tanto tra loro mi confesso, ma non è così che ti resettano i peccati e poi esci. Comunque puoi dire di Cristo ci salva, puoi dire mamma mia ragazzi, è già entrata nella parte, puoi dire ad Aurora che mi vanno bene anche ius secondi, no, tis, così massimo, chissà come sarà contento il deputato Nicola Molteni di sentire questo. Ma questo ius prime notis, Lega c'era un tempo, si dice, però no. C'era il Lega? Cioè Bossi se le trombava? Era una leggenda, Scusa, ci stai dicendo che Umberto Bossi... Ma io ai tempi non c'ero, nel senso, se c'ero avrò avuto di così, si narra la leggenda, vabbè, ma così è un'antica tradizione. Non c'è a Radio 24. Non ce l'ho Ius Prime Notis. Aspetta, il presidente delle associazioni dei consumatori non Ius Prime Notis, non lo sapevate? No, al Codacons c'è, ovviamente. Al Codacons. No, ma Aurora Lussana ci ha detto con una pacatezza normale che c'era, forse leggenda vuole che ci fosse lo Ius Prime Notis alla Lega, per cui Umberto Bossi si doveva passare le leghiste? Ma lasciamoglielo credere. Va bene, è leggenda. Comunque, come sai Aurora, noi abbiamo scomodato non solo il Presidente della Repubblica, ma anche un tuo carissimo amico, abbiamo chiamato Palazzo Chigi. Certo, in questo momento Renzi è un po' preoccupato da altre cose, ma senti qua, Renzi per te! Ciao Biondo, ciao Ciccia, è il vostro dittatore fiorentino preferito, devi farla. Ho appena smesso la tuta mimetica ed eccomi qua. Aurora, tutto a posto con i testimoni? Al 100%? Se no ti mando la Maria Elena, so che ti farebbe molto piacere. Oh, sto scherzando, una battuta, La Maria Elena Boschi è testimone. Sarebbero contenti, mi invitate per la Maria Elena Boschi. Ma senti un po', ma no, si guarda la sposa, smettila, cioè mica si guardano gli altri. Senti un po', ma chi sono, chi è che c'è della Lega domani? Facciamo le Lega. Salvini viene invitato? Ma sono i miei amici, cioè nel senso invitato i miei amici, quelli con cui voglio condividere sì, questa giornata. Vabbè, certo, sì, ma poi della Lega ci sarà una bella reunion. Sì, sì, Salvini c'è, Umberto Bossi. Allora, Salvini allora, per quello che mi riguarda, se venisse mi farebbe davvero piacere. Perché forse è a Santa Margherita Ligure. No, oggi è Santa Margherita Ligure, magari domani se ovviamente invitato. Umberto Bossi, Umbertone viene? Ma credo di sì. Il Trota? Il Trota c'è? E non eravamo tanto amici. No? No. Non l'ha invitato il Trota? No, nel senso, no, non lo so, io non... Ma Maroni? Maroni c'è? Ma mi auguro che grande governatore di noi Lombardi possa esserci, sai, tutta gente che c'è. Ma ragazzi, Renzi a un giorno dal matrimonio non sa chi sono gli invitati. Ho capito, ma voglio dire, sono tutte persone che hanno anche incarichi magari istituzionali, c'è da fare se vengono. Ma è un matrimonio politico, ma è un matrimonio, insomma. Ma, certo, no, ma sì, certo, gli amici parenti vengono su dalla Puglia. Puglia, tutti, figurati tutti dalla Puglia. Parole e opere coincidono, c'è un'identificazione, no? A volte, insomma, in una comunità politica ci sono anche. Ma non pensate sempre alla politica, sposatevi e pensate a altre cose. La Lega, avvocato, è una grande famiglia, e quindi. Anche un matrimonio, è una piccola saga di paese della salsiccia della Bergamasca. Questo si tramuterà così. Ancora, ma cos'hai contro i bergamaschi? Niente, assolutamente nulla. Sai cosa diceva Gianni Brera dei bergamaschi? Cosa diceva? C'era un suo collega belga che doveva fare un servizio su Gimondi, allora gli ha detto: ma spiegami un po' come sono questi bergamaschi, che razza mai sono questi bergamaschi? E lui diceva che sono un po' un misto, no? Scandinavo, celta, su antico ceppo ligure, e ricordava sempre che sono stati soli alle... cioè praticamente sono stati gli unici bergamaschi a reggere i 25 gradi sotto zero dei 3000 metri sul Cervino. Vabbè, insomma, quindi porta rispetto ai bergamaschi. Grande rispetto ai bergamaschi. Ciao. Allora andiamo al traffico. Ciao. E poi rientriamo. Le traffico. 24 entriamo, niente segreteria, dai, che sennò si perde tempo. Oggi la segreteria è saltata. Siamo con Carlo Rienzi, presidente del CODA, con sé Aurora Lussana, che domani si sposa. Vabbè, c'è un altro Aurora, abbiamo e Carlo Rienzi, abbiamo chiesto un altro parere, sempre illustre Aurora, il presidente, l'ex presidente, ex cavaliere, insomma Silvio Berlusca. Buongiorno ad Alessandro Milan, il mio conduttore preferito, mai il cognome fu più gradito. Buongiorno anche a quella gnocca della Lussana che domani ha deciso di convolare a nozze e quindi non ho più speranze. Mi raccomando, col marito vi voglio sempre coesi e molto positivi, ma soprattutto con un'ottima organizzazione di giuoco. E ricordate, lo schema migliore è sempre il Bunga Bunga. Vabbè. Dai, a vigilia di un matrimonio non si può sentire. Allora, caro Rienzi, avete capito che ha fatto Jovanotti? Avete saputo che ha fatto Jovanotti? Che ha fatto Jovanotti? È andata a una lezione a Firenze con l'università, era l'università di Firenze, e in pratica ha fatto un lungo discorso per dire che per i giovani lavorare gratis in alcune occasioni magari è giusto. Sì, non è, fa esperienza. Ma sentiamo Jovanotti, Lorenzo Cherubini. E la domanda rimane, no? Accettano di fare un lavoro gratis? Che significa? Significa che comunque non è gratis quel lavoro lì. Hanno partecipato ad una cosa, hanno costruito qualcosa dentro di sé, no? Io quando ero bambino facevo tutte le sagre, ora non si può, no? Perché c'è le leggi da bambino. Io andavo a tutte d'estate, stavo 3 mesi a Cortona, e io facevo tutte le sagre e facevo il cameriere gratis. Sono un ragazzo fortunato. Capito Rienzi? Ma adesso subito a massacrarlo tutti. Non è che ha detto i ragazzi lavorino gratis, ha detto dai, è un'esperienza, no? Cioè, no? No? No, ma Rienzi, che no. Ha detto una cazzata. Ma no, ma ha detto che insomma i ragazzi è un'esperienza anche, no? Fare qualcosa, partecipare a qualcosa. Poi scrivi delle canzoni, diventi milionario e cambia tutto. L'editoriale di Carlo Rienzi. A proposito, Rienzi, è il momento giusto per dire che cosa è successo con Di Pietro. Eh, cioè avete un po' di tempo. Ma tutte le sono tre anni che abbiamo un po' di tempo per raccontare. Non ci vuole raccontare cosa è successo con Di Pietro. C'è troppo poco tempo. Troppo poco tempo. Bisogna capirlo, beh, è troppo bello. Troppo bello, davvero. Quando mi dedicherete 8 minuti interi solo su questo ve lo racconto. Vabbè, e allora lo faremo. Cara Aurora, dai, cosa ha detto di male Jovanotti in questo? Cioè, ha detto... No, allora, no, criminalizzarlo questa frase no, perché però capisco anche che oggi siano tutti un po' suscettibili, perché c'è veramente una disoccupazione giovanile così drammatica che uno la vive subito male anche un'affermazione del genere. Però sì, invece ci sta, insomma, fare dei lavori gratuitamente, impari sempre qualcosa. Guarda, cioè, quante sagre tu hai partecipato gratuitamente? E allora? Si impara tanto, anche umanamente, no? Insomma, io ho imparato a fare la sangria. Poi ripeto, oggi c'è poco da scherzare sul lavoro. No, e infatti, se lo dice una cassa integrata. E lo dice una cassa integrata, che però si sposa con uno un onorevole. Ieri scherzavamo al telefono, è la casta integrata. Insomma, se diventi la casta integrata, hai capito? Rienzi, si è sposato un parlamentare, no? Mamma mia, però che rottura. Speriamo che si divertano. Speriamo che si divertano. Non parlano sempre di politica. No. No, noi la sera di solito in casa parliamo o di Italicum o di Legge Severino. Mamma mia, ragazzi, questo matrimonio non sa da fare. Veniamo alla benedizione finale, dai Aurora. Per te abbiamo scomodato anche le altissime sfere del clero. Buongiorno, sono Papa Francesco. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso. Domani Aurora si sposa. Mi raccomando, Aurora, se ispiri sempre ai suoi fratelli e sorelle musulmani, tanti figli di tutte le parti, e che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. Che meraviglia. Che meraviglia. Sì. È tutto pronto allora? Ti ispirerai ai musulmani? Ai tuoi fratelli e sorelle musulmane? Sì, volente cotechino. No, non per quello. A Pontre, che si mangerà domani? Che tipo è? Un omaggio alla tradizione del lago di Como. Figurasse. Sì, mi raccomando, i regali, che poi dopo, quando uno si separa, non è il caso vostro. Ma Rienzi, tu sei per i patti prematrimoniali allora? Adesso non stiamo parlando di Aurora. Io sono per stare insieme senza matrimonio, anche perché non si fanno fare tutti quei regali, poi si separano continuamente. Ma non è carino, detto a una che si sposa domani, però. Io dico la mia opinione, mi dispiace, lei sarà contento. Potevi far finta per una volta. Auguroni, però. Potevi far finta. Una volta, dire che bello, non posso fare finta. Niente. Aurora, manca niente. Noi cosa facciamo? Vabbè, viaggio di nozze? Perché c'è il Parlamento. Quando si potrà? La Camera, i parlamentari della Lega mica vanno in viaggio di nozze. Mi sembra giusto. Seria, eh? Che ci devi dire ancora di questo matrimonio? Ci hai detto più o meno tutto. Non sai gli invitati. Ci dicono dovremmo avere l'esclusiva del servizio fotografico. Che in radio funziona molto bene un servizio fotografico, caro ascoltatore. Ci chiedono se sarà una cerimonia orgiastica e panica oppure una cerimonia normale e religiosa. Rito cattolico ambrosiano. Aurora, cosa si dice in questi casi? Carlo Renzi, cosa si dice? Auguroni, un abbraccione. Viva la sposa, Ci siamo vicini. Temevo un altro viva. Temevo un altro viva. No, Aurora, un grosso abbraccio da tutta Radio 24, dai, auguroni, su. Grazie di questi giorni. Domani non ti svegliamo alle 6:30, stai tranquilla. Mi raccomando, fai tutto di sì, tutto a posto. Finisce in dolore, finisce in fretta. Salutaci il trota. Va bene. Ciao Aurora, ciao caro Renzi. Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Eccoci qua, cari ascoltatori, sono le 7:17 minuti, è venerdì, forza, forza che è venerdì. E subito voglio colmare una grave mancanza di prima. Non ho ringraziato a dovere, come merita, il nostro Andro Bercù, l'imitatore più grande che c'è in Italia in questo momento, che ci ha regalato i saluti prima istituzionali mandati ad Aurora Lussana, che si sposa domani, la nostra Aurora Lussana. Grazie ad Andro Bercù, un grande abbraccio. E come dire, noi oggi di che parleremo? Beh, avremo Vincenzo De Luca, la prima volta che parla pubblicamente il neopresidente della regione Campania, alle 8:20 sarà ai nostri microfoni per parlare ovviamente la questione, la legge Severino, eccetera, ma anche cosa vuol fare subito per la Campania, Vincenzo De Luca. Poi parleremo di questa vicenda che a Bologna sta creando molte polemiche, una veglia di preghiera annunciata davanti a un ospedale sabato prossimo, una veglia per chiedere l'abolizione della legge sull'aborto, una veglia di preghiera davanti a un ospedale dove si svolgono anche le interruzioni di gravidanza, che il prefetto vuole vietare perché rischia di creare polemiche. C'è grande fermento a Bologna, è intervenuto anche il sindaco. Avremo ospite l'avvocato Pietro Guerini, che è il presidente nazionale del comitato No 194, cioè la legge, che ci spiegherà perché vanno lì a pregare davanti all'ospedale sabato prossimo, sempre che il prefetto glielo conceda. Allora andiamo a leggere i giornali intanto. In questo venerdì 5 giugno i titoli, il Sole 24 Ore apre su borse e tassi sotto tiro, alta tensione sui Bund, mentre tutti gli altri quotidiani scelgono la vicenda di Mafia Capitale, come ormai è definita, i nuovi 44 arresti che hanno terremotato Roma. Lo scandalo di Roma scuote il PD, così apre il Corriere della Sera, mentre per il Messaggero Mafia Capitale retata di politici. Roma, una delle intercettazioni già celebri, ci stiamo mangiando Roma. Mafia Capitale, nuova retata. Il Fatto Quotidiano è perentorio. Roma va sciolta per mafia. Questo è il titolo di prima pagina. La Stampa, tangenti anche sugli immigrati. Roma, arresti a destra e nel PD. Libero, se resta Marino ci mangiamo Roma. Ecco una delle intercettazioni che diventa in prima pagina il titolo. Il Giornale, il PD vende gli immigrati. Avvenire, Mafia Capitale fa il bis, politici dentro la rete. Il Manifesto, cloaca massima. C'è una foto degli arresti. Come vedete il tema è unico. C'è un'altra vicenda giudiziaria che ovviamente a Roma sta facendo molto scalpore, quella che ha portato all'arresto dei quattro che erano sulla macchina che a Boccea ha travolto una filippina uccidendola, ormai lo sapete, la vicenda molto tragica, e ferito anche altre persone. Le nuove polemiche, perché? Perché ieri Samuel, 19 anni, una delle persone arrestate, uno dei rom arrestati, è già stato scarcerato. Risponde comunque ed è indagato per omicidio, ma è già tornato a casa. Perché? Concorso in omicidio, per la verità, è l'accusa a cui deve rispondere. Perché è tornato a casa? Perché il GIP ha accertato che non era lui alla guida. Rom, già libero, il 19enne dell'auto killer. È il titolo di pagina 17 del Messaggero, ma anche il Giorno. C'è questa immagine di questo ragazzo che passeggia fuori dalla procura con tutti i microfoni intorno, lui non dice una parola, sguardo basso e se ne va. Certo, a questo tema è dedicato il Buongiorno di Massimo Gramellini sulla Stampa. Dico Massimo Gramellini, anche qui non certo una persona che può essere accusata di essere un fanatico razzista, anzi tutt'altro, una persona molto equilibrata, un giornalista sempre molto attento e rispettoso di tutti. Sentite però cosa scrive Massimo Gramellini sotto il titolo Diritto Romano. Immaginate cosa starà pensando il capo della mobile di Roma a proposito dei fratelli rom che hanno falciato 9 passanti uccidendone una. 5 giorni per trovarli e 2 per liberarli. Ecco cosa starà pensando. Già scarcerato Samuel, il maggiorenne, perché le testimonianze autorevolissime degli altri familiari concordano nell'addossare tutte le responsabilità sul minorenne destinato a pene più lievi. Davvero strano l'equipaggio di quell'auto a cui il giudice attribuisce tanta credibilità. Un 17enne senza patente al volante di una vettura senza assicurazione che al posto di blocco si fa prendere dal panico e schiaccia il pedale dell'acceleratore credendo si tratti del freno. E non per un attimo, ma per un chilometro intero. La moglie, minorenne come lui, che si prodiga per addestrarlo a un uso corretto della pedaliera. Un padre malato di cuore, forse, che vive in una roulotte infestata da topi, eppure possiede un ingorgo di macchine. Infine Samuel, questo bravo ragazzo che si guarda bene dal soccorrere gli investiti e rimane alla macchia 5 giorni, ma solo per non lasciare il fratellino in balia dei propri fantasmi. È una favola ingegnosa alla quale sembrano credere soltanto quelli che lo hanno rimesso in libertà. Chi ha applicato la legge col paraocchi è consapevole che a Roma c'è un quartiere blindato dove i fascisti di Casa Pound soffiano sull'animo risentito degli abitanti? I fomentatori di odio ringrazieranno per il pacco dono di una liberazione immediata che si fa beffe del senso comune e delle forme elementari di prudenza. Se esiste un sistema legale per fomentare il razzismo, questa decisione lo ha brevettato. Massimo Gramellini, in prima della stampa, commenta così la scarcerazione di uno dei rom, il 19enne. Allora, questo è raccontato dal Messaggero. Vi voglio raccontare invece questa storia, che è un commento di Pierluigi Battista, che riguarda una vicenda che proviene dall'Inghilterra e ieri è finita sulle prime pagine dei giornali del Corriere della Sera, e riguarda la bioetica, i farmaci anticancro, efficaci ma carissimi, e siccome sono carissimi, cioè molto costosi, ci sono governi che scelgono di non rimborsarli. L'ultimo caso riguarda un farmaco che si chiama Olaparib, un nuovo farmaco importantissimo per affrontare il tumore all'ovaio, che costa però 5.700 euro mensili per ogni paziente, e allora il governo inglese ha deciso di non rimborsarlo. Il titolo del commento di Pierluigi Battista è questo: il costo di un anno di vita in più. Lo ha scritto ieri il Corriere: il sistema sanitario inglese nega il rimborso dell'Olaparib, questo nuovo farmaco importantissimo per affrontare il tumore all'ovaio, perché costa 5.700 euro al mese. La stessa cosa è avvenuta qualche mese fa per una molecola utile per aiutare la battaglia contro il cancro al seno. Si oltrepassa un confine bioetico sottile, si negano le cure a un malato che potrebbe guadagnare anni di vita. Si lasciano morire donne e uomini che sono ancora vivi. Uno studio intitolato Rapporto Sullivan prevedeva che le nuove medicine antitumorali avrebbero pesato con un costo insostenibile per i conti dei sistemi sanitari. E già allora l'economista Amartya Sen si era impegnato, inascoltato, per lanciare un fondo che punta a remunerare le industrie che distribuiscono i nuovi prodotti. Perché è inutile girare intorno alla questione con perifrasi, eufemismi, formule edulcoranti, rassicurazioni ipocrite, scrive Battista. È inutile negare che la ricerca per nuovi farmaci contro il cancro molto spesso non guarisce, non lascia aspettative di vita lunghissime, non sana in modo definitivo, ma aiuta a prolungare la vita, a permettere ai vivi di restare vivi altri anni. E allora quanto costano 2 anni di vita in più? Questa è la nuova domanda bioetica che saremo prima o poi costretti ad affrontare. La battaglia contro il cancro ha fatto passi giganteschi, ormai si ottengono risultati dalla medicina, dalla chirurgia, dalla radioterapia, insperati fino a qualche anno fa, ma dobbiamo convivere con la fine di un'illusione, che prima o poi venga scoperta una pillola miracolosa in grado di debellare il cancro, la terapia risolutiva definitiva che farà ricca l'industria farmaceutica, che la troverà dopo aver finanziato la ricerca e potrà essere distribuita a prezzi contenuti, perché la sua diffusione universale porterà gigantesche remunerazioni a chi ha avuto la fortuna e la bravura di scoprire la formula magica. No! Ormai la ricerca ha preso una direzione opposta, punta alla individualizzazione della cura, non alla sua universalizzazione, alla singola mutazione genetica da colpire con farmaci miratissimi e che dunque, potendo raggiungere una fascia ristretta di malati, non potrà che produrre farmaci costosissimi, come i 5.700 euro al mese per l'Olaparib, di cui scrive ieri Adriana Bazzi sul Corriere. E ci si chiede, la domanda bioetica, come sia possibile sostenere a lungo costi così elevati. È un interessante commento, ho letto una parte di Pierluigi Battista, il tema c'è tutto, è molto attuale, ne scrive sul Corriere della Sera, il titolo è Il costo di un anno di vita in più, Pierluigi Battista. Saltiamo a cose più di cronaca, di quelle che fanno un pochino arrabbiare, una in particolare, infatti vincerà il premio, ma andiamo con ordine. Prima Agrigento, pagina 17 della Stampa, è impossibile demolire le case abusive nella Valle dei Templi. Succede uno scontro, come racconta Fabio Albanese, nella città siciliana, uno scontro tra la procura, il comune, l'ufficio tecnico del comune, la sovrintendenza dei beni culturali, l'ente parco archeologico e paesaggistico, che da mesi rispondono ai PM che la responsabilità delle demolizioni non è loro ma di qualcun altro. Alla fine la procura, scrive la Stampa, lo ha messo nero su bianco: o cominciate le demolizioni nelle case abusive della Valle dei Templi o vi denunciamo. Denunciamo il comune, denunciamo l'ente parco archeologico, denunciamo la sovrintendenza ai beni culturali e ambientali. Questa è la minaccia della procura, che lancia l'ultimatum col procuratore aggiunto di Agrigento Fonzo, che dice si rimane stupefatti per gli obblighi disattesi nonostante le precise indicazioni provenienti dalle leggi vigenti. Vanno abbattute le case abusive, ma nessuno lo fa dicendo lo devi fare tu, no, lo deve fare quell'altro. Vabbè, ma è questo il premio Mani sul volante per l'articolo che ci fa più incazzare. Lo vince oggi Il Giorno, a pagina 16. Facevano, è un gran classico, un gran classico. Facevano la spesa un secondo lavoro, retata tra i dipendenti comunali assenteisti. 3 dipendenti, 8 lavoratori socialmente utili del comune di Manfredonia sono stati posti agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza. Siamo in provincia di Foggia, perché sono accusati insieme ad altre 11 persone di aver timbrato il cartellino e poi si dedicavano ad altre attività. Chi andava a fare la spesa, chi si faceva i fatti propri, tra questi anche lavoratori socialmente utili, molto utili, a loro stessi molto utili. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il Max Allegri per informazione. Dai Allegri, dai che la coppa è vicina e cosa fatta per la Juve. Su, dai, è l'anno della Juve, state tranquilli, finirà 1-0, gol di Bonucci all'82 di Stinco in mischia. No. No, ma non sono chiamati gufi. Allora, tra l'altro continua il contest, devo dire molti mi hanno azzeccato e hanno detto sì, il film da cui è tratto, sono cose che capitano. Allora, molti mi hanno scritto per un pugno di dollari, altri mi hanno scritto altri film, western, film di Sergio Leone, film anche del grande colonna sonora di Morricone, altri film, non ricordo. E il film è questo pazzo mondo, detto 4 volte, questo è il film. 3 volte mi dicono, no, secondo me 4 volte, 3 volte, pazzo mondo, non lo so, 3 o 4 volte, quello è il film da cui è tratto, sono cose che capitano. Oh, però ci dobbiamo tuffare nella lettura, è una lettura, guardate, anche 4 volte, vedi Lorenzo Nespoli, questo pazzo mondo. Correzione in corsa. Allora, la lettura, dicevamo, di Mafia Capitale, la lettura delle intercettazioni, è un mondo veramente, un mondo marcio, a meno a leggere le intercettazioni, davvero incredibile. Intanto il linguaggio di queste persone che parlavano, che si spartivano tutto, questa è l'accusa a Mafia Capitale, si spartivano tutto gli appalti sui rom, sugli immigrati, sulla gestione di queste emergenze coi politici. Allora, intanto gli arresti. Ivan Cimmarusti, pagina 8 del Sole. Tremano le amministrazioni di Roma e Lazio. Mafia Capitale aveva messo le mani sui politici di PD e PDL con un obiettivo riassunto da Salvatore Buzzi. Sappiamo benissimo che tutte le gare in regione e in comune c'è la quota di maggioranza e la quota di opposizione, diceva così in un'intercettazione. Allora, 44 persone arrestate. Tra questi politici, Luca Gramazio, ex consigliere comunale, attualmente consigliere regionale del PDL. l'ex assessore alla casa del Comune di Roma, Daniele Ozzimo, dunque del PD, Mirko Coratti, PD, ex presidente del Consiglio Comunale, Franco Figurelli, ex capo della segreteria del Consiglio Comunale, Michele Nacamulli, esponente locale del PD, Pierpaolo Pedetti, presidente della Commissione Patrimonio del Comune, Giordano Tredicine, è il vice coordinatore di Forza Italia per il Lazio e anche vicepresidente del Consiglio Comunale, Massimo Caprari, ex esponente del Centro Democratico, ovviamente anche vari dirigenti, 44 arrestati. Come funzionava il sistema lo racconta dalle intercettazioni e dagli atti del Procura Giovanni Bianconi a pagina 2 del Corriere della Sera. A proposito di Coratti, si legge in un'intercettazione, c'ho una cosa, 10.000 euro, eccolo qua, prima ancora di parlare, 10.000 euro. Raccontava Salvatore Buzzi il 15 gennaio 2014. Dall'ex presidente del Consiglio Comunale in giù, il nuovo capitolo del malaffare in Campidoglio racconta di denari, assunzioni di parenti, amici o amiche, elargiti tutti con generosità dalla presunta associazione criminale guidata da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Per fare mangiare la mucca, dicono in un'intercettazione, che poi garantiva ai politici l'adeguata mungitura, cioè le tangenti. Vabbè, poi i dialoghi, si sa, a volte quando si parla al telefono si parla anche in maniera, no, brutale, non sapendo di essere intercettati. Ma amici, amici ovunque, i favori della banda, pagina 6 del Corriere, Fulvio Fiano e Ilaria Sacchettoni. I soldi non sono tutto e dunque c'erano le assunzioni di amici. Con questo linguaggio, per esempio, di Salvatore Buzzi, oh, v'ho fatto un grande regalo, abbiamo preso a lavorare la raccolta differenziata, una figa da paura, 1,70 duzzinne così, bellissima. E l'altro intercettato, rotolo, grande, se non ci pensi tu, insomma, hanno valutato evidentemente il curriculum di questa ragazza, gli eventuali requisiti professionali, come scrive il Corriere, non sono il cuore della valutazione della nuova assunta, e l'aggiunta di Buzzi è un politico, mi ha segnalata, ma ha detto che bisognava farla lavorare. E così via. Gaetano Altamura del Dipartimento Tutela Ambiente piazza due nipoti, scrive il Corriere, le gemelle Ilenia e Giorgia Cammarota dell'86, un foglio bianco per curriculum, un foglio bianco. Cristiana Riso, responsabile del personale, chiede lumi a Buzzi. Chi le mandava non me lo ricordo. Altamura, risponde Buzzi. Ah, ok, perfetto. Sono due che si possono, cioè, li si può far fare l'apprendista, cioè, non è che poi gli puoi far fare responsabile. Viene da dire un curriculum con un foglio bianco. Insomma, sono proprio due bambine, so, no? E allora vedi un po', Buzzi, no? L'importante era sistemarle, questo era il concetto della intercettazione, questo sempre secondo la procura, tutto ovviamente va provato, ma poi il patto corruttivo anche con l'uomo del governatore, così racconta pagina 3 del Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini, cioè un uomo vicino a Zingaretti, insomma il timore è che crolli tutto. Cioè, il Fatto Quotidiano titola così: Roma va sciolta per mafia. Pagina 1. C'è da dire che il sindaco Marino, ribattezzato da Libero Ignaro Marino, invece che Ignazio, il sindaco Marino si difende. Fa due interviste, una al Messaggero e una al Fatto Quotidiano. Sentite qui al Messaggero, pagina 9, l'intervista di Fabio Rossi al sindaco di Roma. Lasciare il Campidoglio nel 2023, alla fine del secondo mandato. Quindi rilancia Marino. Questa inchiesta è frutto del nostro lavoro di cambiamento. Il mio primo atto da sindaco è stato chiedere al Ministero dell'Economia di utilizzare gli ispettori della Guardia di Finanza in Campidoglio. Questa per me è una giornata di festa. Con la giunta Alemanno la criminalità organizzata si era infiltrata fino ai vertici dell'amministrazione e oggi tutto è cambiato. Scusi, ma in tanti le chiedono le dimissioni. Se a chiedermi riflessioni fosse Papa Francesco, mi fermerei a pensare seriamente alle mie azioni. Ma le dimissioni me le propone Giorgia Meloni, leader di un partito che ha chiesto voti all'Ndrangheta. Rispondo allora che voglio spianare come un rullo compressore tutte le persone che negli ultimi anni si sono messe sotto i piedi i diritti e i soldi dei romani. E però sono coinvolte anche persone del PD. Per esempio, il PD le aveva proposto Mirko Coratti come vice, ora arrestato. Col senno di poi, credo di aver fatto bene ad aver scelto invece Sabella, risponde Marino. Insomma, risponde colpo su colpo: non lascio l'inchiesta in merito del mio lavoro. Anche al Fatto Quotidiano, a pagina 3, dice: tanti mi ostacolano anche nel mio partito e nel PD, ma se vado a casa farei il più grande regalo alle mafie. Sono mormorii di chi non conosce la legge, dice al Fatto Quotidiano il sindaco Marino a chi gli profila lo scioglimento del comune per mafia. Non conoscete la legge, i comuni si sciolgono quando c'è un controllo dei clan che si infiltrano nei vertici dell'amministrazione. Qui siamo all'opposto. Queste figure, come l'ex assessore Ozzimo, si contrapponevano alla mia politica, cercando di contrastare l'azione di questa amministrazione. E poi riguardo alla scelta, alla proposta di Mirko Coratti, vice sindaco da parte del Partito Democratico, sentite come risponde Marino: dicono che io di politica non capisca nulla, lo dicono nei partiti, ma io capisco qualcosa di essere umani. Ed è per questo che non ho scelto Coratti. In ogni caso, il PD trema. Imbarazzi e paure nel PD sotto assedio, questo è il titolo del Corriere della Sera, Monica Guerzoni a pagina 10, da dire che la rassegna stampa è dedicata molto a questo, perché le prime 10-12 pagine di tutti i giornali sono dedicate proprio a queste intercettazioni. E l'idea di Renzi è questa: Renzi ai suoi dice bisogna tener duro e non cambiare Marino, perché il timore confessato è: se in questo momento qualcuno del Movimento 5 Stelle, se si andasse a votare, proponesse qualcuno di appena credibile, vincerebbero sicuramente le elezioni al Comune di Roma. Questa almeno è la frase attribuita dal Corriere della Sera a Renzi e ai suoi, e quindi bisogna saldarsi intorno a Ignazio Marino. Poi ci sono i profili della dinastia Gramazio, Gramazio padre, soprannominato Er Pinguino, e Luca Gramazio che è stato arrestato. I profili, vi segnalo anche, del vice coordinatore di Forza Italia nel Lazio, Tredicine, lo racconta chi è anche Roberto Galullo sul Sole 24 Ore. Insomma, tantissime pagine dedicate a quella che è il nuovo scandalo di Mafia Capitale. Vabbè, cerchiamo di svoltare pagina e andiamo a questa notizia che c'è su tutti i giornali, che riguarda i contratti degli statali. Oggi non avremo Mauro Meazza, ce l'aveva detto che oggi Mauro Meazza prende un giorno di riposo, lo ritroveremo lunedì. I contratti statali, un costo da 35 miliardi, questo è il titolo che trovate sul Corriere della Sera, pagina 15. Che cosa succede? Succede che il 23 giugno la Corte Costituzionale esaminerà i ricorsi dei sindacati contro il blocco dei contratti del pubblico impiego che dura dal 2010. E stavolta la posta in gioco è alta. Allora, in vista di questa decisione della Corte Costituzionale, l'Avvocatura Generale dello Stato ha fatto un calcolo e ha detto alla Consulta: attenzione, vi diamo questa memoria, questo memorandum, sappiate che se si dovesse sbloccare con retroattività gli stipendi, gli aumenti degli statali del 2010 a oggi, lo Stato rischia di pagare 35 miliardi di euro. 35 miliardi per il passato più 13 a partire dal 2016, quindi 35 il passato e 13 che incombono dall'anno prossimo, cifre rispetto alle quali il problema aperto sulle pensioni e poi risolto dal governo potrebbe dirsi quasi trascurabile, racconta Mario Sensini sul Corriere. I numeri sono stati forniti direttamente dalla Ragioneria Generale dello Stato all'Avvocatura e da qui girati alla Corte Costituzionale. I sindacati parlano di cifre gonfiate e parlano anche di intimidazione nei confronti della Consulta, che dovrà decidere il 23 giugno appunto sul ricorso di questi sindacati. Allora, si rischia una nuova apertura di un buco potenziale per una decisione della Corte Costituzionale a fine giugno? Questo è il tema, questo è il tema. Intanto andiamo al traffico! Silvio Milan, manda il traffico! in Italia, in Europa e nel mondo, debusciato. Alessandro Milan. Ma no, forse è meglio Alessandro Juve. Va bene, ma perché l'inno della Juve? Che succede? Allora, smettila, Peter Vescafè, smettila, tu e i gufi. A proposito di calcio, non c'è Chiellini, tra l'altro, gli avevo detto a Mario Dinolfi, magari si infortuna Chiellini 3 giorni fa. Vabbè, ma sono cose che capitano. Allora, rivelerò tutti i segreti della FIFA. Questa è la minaccia di... la minaccia o la promessa di Warner, l'ex vice in arresto. Influenzava anche i partiti, ora temo per la mia vita. Warner è l'ex presidente della FIFA, la vicenda è quella che ha portato anche le dimissioni di Blatter, anche se tribolate dopo che si è fatto rieleggere presidente della FIFA. Tutti i giornali raccontano di delle nuove, i nuovi segreti che potrebbero uscire sul calcio, sulla federazione che gestiva il calcio mondiale. Tra tutti questi segreti ce n'è uno abbastanza incredibile e discretamente squallido, ed è questo. Io non so se voi ricordate, gli appassionati di calcio si ricorderanno sicuramente, quando la Francia si qualificò per i mondiali del Sudafrica nello spareggio, battendo l'Irlanda, che allora era allenata da Giovanni Trapattoni, tra l'altro, e lo fece con un gol palesemente irregolare, un gol in cui Thierry Henry si aggiustò la palla con la mano, proprio una cosa evidentissima a tutto il mondo. Ebbene, ora si scopre che dopo quella partita, al termine della quale l'Irlanda protestò tantissimo, volevano fare ricorso, invocavano la prova televisiva, cioè gli avevano rubato i mondiali, gli avevano rubati la qualificazione ai mondiali, la federazione irlandese accettò in realtà una mazzetta, come la volete chiamare, 5 milioni di risarcimento per mettere a tacere le proteste dopo l'esclusione dai mondiali. Mazzetta antiproteste, i traffici della FIFA arrivano anche in campo. Nel 2010, racconta la stampa, pagati 5 milioni all'Irlanda per mettere a tacere le proteste dopo l'esclusione dei mondiali. Ora la federazione irlandese dice effettivamente li abbiamo presi perché ci facevano comodo. Allora... ragazzi, ma io non lo so, è tutto così. Vabbè, ma che ha combinato Jovanotti? L'avete sentito? L'abbiamo fatto sentire alle 6:30, è andato all'Università di Firenze a parlare agli studenti. Non è che abbia detto che i giovani devono lavorare gratis, non ha detto che devono lavorare gratis, questo non lo ha detto, ma ha detto che le esperienze giovanili, come ha fatto lui, andare magari alle sagre, prestare lavoro gratuito, aiutano a fare esperienza. Eccolo qui che il dibattito divampa. Il Fatto Quotidiano chiama Andrea Scanzi e Caterina Soffici, uno contro, Scanzi è contro questa uscita di Jovanotti, Caterina Soffici è a favore. Sbagliati vaffa contro di lui, ha ragione, scrive Caterina Soffici, mentre Andrea Scanzi dice non è colpa sua, ma di chi gli dà la parola, Jovanotti, non è colpa sua, non lo fa apposta, semplicemente lui è così, immaginate di dare il paese in mano a uno che non ne sa niente. No, non Renzi, uno peggiore, scrive Scanzi, ammesso poi che esista. Vabbè, si sa, Scanzi è molto anti-renziano. È quella stessa cosa che accade quando Jovanotti esce dal suo alveo naturale, quello di discreto paroliere, ottimo performer live, e assurge a maître-à-penser. Stavolta andrebbe difeso perché non ha mai detto che lavorare gratis sia giusto, ha solo sostenuto che all'interno di un percorso formativo può eccezionalmente accadere di lavorare senza retribuzione. Chiaro, no? Ecco, scrive Scanzi, ogni volta che Jovanotti si erge a pensatore è un calvario, qualcosa di straziante per noi, ma più che altro per lui. Mentre Caterina Soffici lo difende e dice Jovanotti ha detto una cosa giusta, che per un giovane lavorare gratis anche come volontario serve per fare esperienza. Lo ha detto certo in una sede sbagliata, un'aula universitaria dove lui siede come un usurpatore, lo ha detto con il tono sbagliato, da cantore del renzismo, menestrello di corte, anche se poi lui e la sua famiglia vivono in America. Se sei un disoccupato o da anni fai lo stagista gratis e se ti hanno offerto ogni tipo di lavoro purché non pagato, hai una sola reazione, ti incazzi. Ma è proprio questa reazione sgangherata dei ragazzi italiani a fare impressione. Questo scrive Caterina Soffici. Certo, nel contesto italiano una frase come quella di Jovanotti, anche qualche lavoretto gratis serve a fare esperienza, io l'ho fatto, può suscitare una legittima incazzatura. Siamo in diretta anche su Periscope, in questo momento, con Lorenzo Nespoli, che è qui in redazione. Vi voglio raccontare una storia che c'è sulla Stampa, ed è una storia di cronaca. A pagina 18 riguarda un paesino di 870 abitanti, Lerma, in provincia di Alessandria. Succede che a Lerma sono stati affidati al comune 53 cani confiscati. Oh, Lerma ha 870 abitanti e ora 53 cani confiscati da mantenere. Sono stati confiscati e potrebbero costare questi cani al comune e dunque ai cittadini 62.000 euro l'anno. Un salasso di cui il piccolo centro avrebbe fatto volentieri a meno, ma che è piovuto come una tegola sulla testa del sindaco Bruno Aloisio pochi giorni fa. Colpo di coda di una vicenda che da queste parti tiene banco dal 2008. E non voglio riepilogare la vicenda, non mi interessa. Certo che però il sindaco dice: io non ho i soldi per mantenere questi cani. Non ho 62.000 euro l'anno per un comune così piccolo. E quindi minaccia di riconsegnare la fascia al prefetto e di dimettersi. Affidati al comune 53 cani confiscati, le casse municipali rischiano il default. Oh, vogliamo bene agli amici cani, però insomma, un default per un comune così piccolo, per i cani. Comuni vicini, aiutate il sindaco di Lerma, fatevi carico di questi cani, perché sennò come facciamo? Siamo quasi in chiusura? Sì, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Vi ricordo che riprenderemo alle 8.20 con Vincenzo De Luca. Vincenzo De Luca parla per la prima volta dopo l'elezione. Eccola qua la carta costa, lo sapevo. Sul giornale L'Esegesi, l'analisi della foto di Matteo Renzi che gioca alla PlayStation comparata a quella di Enrico Letta che giocava su Buteo. Ve lo ricordate? Allora, è meglio l'attuale PlayStation del Presidente del Consiglio o il subbuteo del precedente Presidente? Vabbè, non c'è confronto, il subbuteo mille volte meglio della rincoglionente PlayStation, su questo non c'è dubbio, ma vi rendete conto? Mezza pagina sul giornale, la foto di Renzi con Orfini che gioca la PlayStation e la foto di Letta che gioca non so chi a subbuteo. Cos'è meglio? Cos'è meglio? Adesso ci penso. Ma chi se ne frega! Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco. Milan, il cagnasso randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Allora, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Quando sono le 8:20 minuti in punto, oggi abbiamo qui con noi senza dubbio uno dei protagonisti della politica in questo momento, un uomo a cui tutti guardano con grande attenzione, è il neoeletto presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che saluto. Buongiorno De Luca e ben ritrovato. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Grazie. Lei è già al lavoro, no? So che ieri ha tenuto una riunione sulla cosiddetta terra dei fuochi, ci arriveremo ovviamente, però come sa tutti guardano e sono appesi al suo destino politico. Ma lei ha capito quando potrebbe essere sospeso per la legge Severino? Ma io toglierei dall'angoscia tutti quelli che seguono la politica, tranquilli tutti, rilassiamoci, problema che bisogna insediare la nuova giunta, insediare il consiglio, insediare gli organi, dopodiché chi è interessato alla Severino si sottoporrà alla procedura prevista dalla legge. E cioè ci sarà la comunicazione al Presidente del Consiglio, nel caso mio è competente il Presidente del Consiglio, rispetto all'applicazione a Severino, il quale avvierà la consultazione con il Ministro dell'Interno, il Ministro delle Regioni, e poi dovrà prendere le sue determinazioni. Sì. Quindi questa lei, è la procedura. Lei ovviamente dice dopo. Questa procedura è già stata seguita, anche su questo c'è un precedente, a Corte d'Appello di Bari, che a fronte di una sospensione decisa dal Presidente del Consiglio ha rigettato questa sospensione e ha reintegrato nelle funzioni pubbliche un consigliere regionale. Però è interessante capire quando deve avvenire questa sospensione, perché alcuni dicono subito, cioè potrebbe avvenire oggi, e invece lei dice no, deve avvenire a insediamento concluso. Sì, c'è qualcuno che dice anche ieri, qualcuno dice che doveva venire anche prima delle elezioni a sospensione. Vabbè, ma lei sa che abbiamo un paese che ormai è una specie di circo equestre, ognuno si alza la mattina e dice quello che diavolo vuole. C'è in particolare una componente politica, quella dei grillini, che è specializzata nella presentazione di ricorsi. Ecco, sulla loro lapide metteremo presentarono 1000 ricorsi. Dicono anche il massimo dell'attività politica. Comunque tranquilli tutti quanti, abbiamo dei precedenti anche qui. Ovviamente dicono anche che lei deve andarsene. Dicono che debba andarsene lei, i grillini, appunto, visto che li ha citati. Quando decideranno i cittadini ce ne andremo. Credo che almeno su un punto dovremmo essere d'accordo in un paese democratico, che decidono i cittadini elettori da chi essere governati o meno. Anche questo punto di principio sembra opinabile nel nostro paese. Comunque ormai siamo abituati a tutto. Può tranquillizzare i cittadini, i campani, che non ci sarà paralisi nel governo regionale? Cioè i cittadini campani sono talmente tranquilli e intelligenti che hanno deciso, nonostante una campagna mediatica infame, di votare Vincenzo De Luca. Questa campagna di aggressione politico-mediatica che si è sviluppata nell'arco di mesi sarà ricordata nei prossimi anni come la più infame delle aggressioni personali subita da un esponente politico. Vedrete nei prossimi anni. Lei dice, faremo un'operazione verità, accenderemo i riflettori su tutto. Chi è stato il più infame secondo lei? Gli infami sono quelli che rappresentano gruppi di potere che hanno paura, hanno terrore che arrivi alla Regione Campania un uomo che faccia piazza pulita, non avendo né padroni né padrini, non avendo voti di mafiosi e non avendo gruppi di potere da tutelare. Questo è tutto. Ci sono ovviamente spinte trasversali. Però lei, Presidente, questo fa paura a molti. Però, Presidente De Luca, il primo atto che lei ha compiuto è stato, come aveva promesso, querelare la Presidente della Commissione Antimafia Rosy Bindi. Non si poteva soprassedere vista la vittoria? No. Perché per me non conta l'aver vinto o non aver vinto, conta far ringoiare cose ignobili che sono state dette. Quando si parla dell'onorabilità di una persona bisogna misurare le parole e in modo particolare quando si parla di qualcuno che come me ha speso la sua esistenza per le battaglie di legalità e di trasparenza. Cioè, non può essere tollerato da parte di nessuno, nessun accenno che non sia di assoluto rispetto. Quell'impresentabile, insomma, non l'ha digerito. Questa è un'altra grande imbecillità che è stata inventata in un paese che ha bisogno di inventarsi una palla ogni settimana per non affrontare i problemi veri. Mentre c'era qualcuno che si baloccava con gli impresentabili inventati e finti, poi i ladri veri e i tangentisti veri, come vediamo in queste ore, continuano a rubare, a corrompere e a prendere mazzette. Però tutto questo non interessa, l'importante è avviare grandi dibattiti epici sulla Severino, gli impresentabili, le palle, le pippe e i ladri veri e i tangentisti, per i quali ovviamente dovremmo adoperare misure 100 volte più rigorose, continuano a fare i propri affari. Però lei, all'Italia è questa. De Luca, Renzi l'ha sentito in questi giorni? Sì. L'ha sentito. Ecco, approva secondo lei il presidente di un partito, oltre che il Consiglio, una rissa in piena regola con carte bollate tra lei del PD e la Presidente della Commissione Antimafia del PD? Non c'è nessuna rissa di nessun tipo. C'è l'onorevole Rosaria Bindi, detta vezzosamente Rosy, che ha ritenuto di adoperare espressioni che vanno al di là delle sue competenze, che sono diffamatorie nei miei confronti e che a mio parere configurano in maniera clamorosa un abuso di potere ed una violazione ai diritti costituzionali. Punto. Siccome ritengo che siano state gravemente violate le regole, mi appello alla magistratura che deciderà. Punto, non c'è nessuna rischio. Senta De Luca, parliamo un po' della campagna che sarà. Io le chiedo questo. Lei ieri ha incontrato i sindaci e comunque a fare un punto sulla questione della terra dei fuochi e non solo. La questione dei rifiuti. Siccome nel decreto Galletti, nello sblocca Italia, c'è la possibilità di portare i rifiuti dalla campagna al nord, è un'opzione. Lei ha detto non ci saranno nuovi termovalorizzatori. Vuol dire che potrebbero esserci nuovi rifiuti dalla campagna che vanno altrove? Valuteremo anche anche questo sulla base di un calcolo costi-benefici. Bisognerà vedere quanti soldi abbiamo a disposizione e quanto costa ogni singola operazione. Fare oggi un termovalorizzatore significa impegnare 400 milioni di euro e avere l'impianto in funzione fra 4 anni. Non mi pare che ci siano le condizioni per fare né l'una cosa né l'altra, cioè né impegnare queste risorse né aspettare 4 anni. E dunque stiamo lavorando immediatamente, non abbiamo perso un minuto di tempo per affrontare tecnicamente la questione ed essere in grado a fine giugno di sapere qual è la soluzione tecnica verso la quale ci orientiamo. Dopodiché si comincia a lavorare anche di notte per affrontare un problema che è diventato di proporzioni bibliche, voi non avete idea. Lo sa che però al nord molti, anche in passato, storcevano il naso quando si diceva di portare rifiuti dalla campagna altrove? Ma devo dire che al nord hanno avuto una posizione di grande distacco, in qualche caso di grande disprezzo verso di noi, anche perché hanno visto che avevamo classi dirigenti che erano inconcludenti, che facevano accumulare rifiuti per strada e che magari buttavano dalla finestra miliardi di euro di fondi europei. Sono convinto che quando si dimostrerà che cominciamo a lavorare in maniera rigorosa, alla tedesca come dico io, ci sarà rispetto e ci sarà anche quel tanto di solidarietà che è necessario per affrontare i problemi drammatici, lo ripeto, drammatici, mentre noi facciamo chiacchiere nei salotti televisivi, drammatici della regione Campania. Lei si può dunque impegnare... siamo al lavoro, ecco, questo mi interessa, fra tante palle e chiacchiere al salotto, noi non abbiamo perso un minuto di tempo e cominciamo a lavorare. Si può impegnare De Luca a abbattere le case abusive? Sa che c'è un alto tasso di abusivismo e spesso si dice c'è un abusivismo di necessità in Campania, lei condivide questo concetto dell'abusivismo di necessità? Oppure va abbattuto tutto? Se potessimo abbattere tutto l'avremmo già fatto. La verità è che, come sempre, noi viviamo di ipocrisia. Abbiamo in Campania, credo, la legislazione vincolistica più stringente del mondo, 3.000 leggi, con il risultato che abbiamo il tasso più alto di abusivismo, 80.000 alloggi abusivi. Lei mi sa dire chi è in grado di demolire 80.000 alloggi? Le faccio solo la domanda, avete le cave dove portare il materiale di risulta dopo le demolizioni? Però che facciamo quindi? Le teniamo tutte? Bisogna fare una cosa di grande buonsenso. Nella mia ipotesi escludo la possibilità di sanatoria per 3 categorie di abusivi. Primo, abusivismo in luoghi di vincolo assoluto, se hai costruito sotto Ravello o Sorrento devi essere demolito. Impossibilità di sanatoria per chi ha costruito in zone con pericolo per la pubblica incolumità, se costruisci sul greto del fiume devi essere demolito e non puoi essere sanato se avevi già un alloggio di proprietà e hai fatto l'abuso. Per il resto si approvano leggi per consentire nell'ambito di piani di recupero di mettere ordine e di far pagare ovviamente il dovuto a chi ha fatto l'abusivismo. Sta dicendo un condono per il resto? Sto dicendo una sanatoria per quelli che non entrano nelle 3 categorie che ho indicato prima, violazione del vincolo assoluto, pericolo per la pubblica incolumità e imbroglio. Poi se c'è un povero Cristo che in una zona interna della Campania, senza danneggiare nessun paesaggio, ha fatto l'abuso, siccome non abbiamo alternative, lo ripeto, non abbiamo alternative, quindi non è che l'alternativa è solo fare un po' di moralismo come siamo abituati in Italia. Diranno però il sindaco sceriffo, presidente sceriffo, e fa l'ennesima sanatoria, sai che ne abbiamo avute in 30 anni di sanatoria. Ma a me non piace la sanatoria, io mi confronto con la realtà che è quella che è. La realtà è questa, è materialmente impossibile demolire 80.000 alloggi. Se qualcuno è in grado di farlo, me lo dica, si proponga e io sono davanti a lui, non dietro. Se questo non è possibile, facciamola finita di fare chiacchiere e troviamo una soluzione ragionevole ai problemi. De Luca, mi ha colpito nel programma l'idea di promettere trasporti gratis per studenti delle medie e superiori. Ma è vera questa cosa? Cioè, perché dovrebbero non pagare? Questa cosa dovrebbe costare 52 milioni di euro nella valutazione che abbiamo fatto noi, e come non sono abituato non a vendere fumo a nessuno. Credo che con i fondi europei, integrando i fondi sociali con quelli per l'integrazione e contro la dispersione scolastica, riusciamo a reperire queste risorse a vantaggio di studenti universitari e medi. Tenga conto che noi abbiamo ormai un problema drammatico di dispersione scolastica, quindi abbiamo come dire, quasi il dovere di favorire perlomeno la frequenza. Poi abbiamo un trasporto pubblico che farebbe vergognare anche un paese dell'Africa subsahariana. Qui fra poco camminiamo a dorso di mulo, quindi gli studenti non riescono neanche ad arrivarci. Qualche misura di emergenza e di aiuto alle famiglie sotto i 35.000 euro di reddito credo che dobbiamo introdurre. Per concludere, tempi della giunta, perché sa, adesso quando lei si insedia, la giunta o qualche nome, cioè ha già in mente qualcuno? Si dice che ci sia già in mente il vice, questo deputato definito De Luchiano. È certo che ce l'ho in mente, appena veniamo proclamati ufficialmente eletti dalla Corte d'Appello procederemo immediatamente alla formazione della giunta. E quando succede questo? Persone per bene, grande respiro e grande spazio. Ma ci dica un nome, De Luca, ci dica un nome, se no... E le pare che io le possa procurare questa angoscia, diciamo, dandole già un nome? No, non lo so. Faccia sono che... interessato per il suo equilibrio, via. Che fa almeno metà donne? Sa che c'è questa cosa, metà donne e metà uomo? Cioè, ci dica qualcosa sulla giunta? Che c'era idea. Il centauro che era metà cavallo, metà uomo. Vediamo. Faremo uno sforzo ovviamente per avere una bella rappresentanza femminile. Ma dobbiamo puntare ad avere molta sostanza, molta apertura, ripeto, sì, alle università, sì, alla società civile, sì, una giunta sicuramente di respiro e non frutto di mercato politico. Ecco, questo l'ho detto prima, durante e dopo la campagna elettorale. Nessun mercato politico decido in piena autonomia. Però sai che tutti guarderanno chi è il vicepresidente, non so se sarà Fulvio Bonavitacolo, il deputato del... perché sarà lui poi nel caso di sospensione a portare avanti in quel periodo la giunta. Avrete un vicepresidente che vi farà sognare, diciamo, sì, no, così. Vabbè, adesso, ma adesso, non sognerete molto perché sto sempre io, la state tranquilli. Sta sempre lei. Chi vince governa, questa è la regola di un paese civile. Per concludere, ma le piace Crozza, De Luca? Le piace da 0 a 10, quanto le piace Crozza? 11, è un maledetto perché è l'unico che mi ha creato un problema di identità, a parte che adesso mi ha inibito l'uso di qualche parola. Vabbè, tipo personaggetto. Vabbè, devo stare attento, comunque mi ha creato, a volte mi sembra di guardarmi allo specchio. Va bene, la ringrazio, buona giornata, ovviamente. Buona giornata, Vincenzo De Luca. Lavoro. Staremo a vedere ovviamente i prossimi sviluppi. Oggi la stampa racconta che Palazzo Chigi è ancora senza strategia per risolvere l'impasse. Era Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che ci ha raccontato un po' tutto, eh? Allora, dopo la pubblicità, 3 minuti e mezzo, parleremo di quello che sta per succedere a Bologna. A Bologna c'è un comitato che si batte per l'abolizione della legge 194, la legge che prevede l'aborto, la possibilità dell'aborto. E vabbè, insomma, è il comitato che si batte per questa cosa. Vogliono fare una veglia di preghiera sabato prossimo, non domani, sabato l'altro, davanti a un ospedale dove si svolgono le interruzioni di gravidanza. Per il prefetto di Bologna c'è il rischio di una vera e propria provocazione, quindi il prefetto di Bologna sta valutando se sospendere questa autorizzazione di poter fare questa veglia di preghiera. Ne discuteremo con l'avvocato Pietro Guerini, che è il presidente nazionale del comitato No 194, tra poco ai nostri microfoni. Eccoci qua, le 8 e 38 minuti, l'intervista di Luca, molti che criticano, molti che accusano. Intanto un'intervista non è un interrogatorio, si pongono le domande e si ascoltano le risposte. Poi io dico sempre, i nostri ascoltatori sono iperintelligenti, ascoltano, non me, ascoltano le risposte e sanno giudicare. Poi certo chi mi scrive intervistate la mafia, cioè adesso De Luca e la mafia, io va bene tutto, però insomma che puoi parlare con delle menti ottuse così, non puoi discutere. Comunque vorrei sentire un paio di ascoltatori prima di presentare il nostro prossimo ospite, Pietro da Bari. Buongiorno Pietro. Buongiorno. Dica. Allora, è una premessa. Sì. Premessa che De Luca è a me un personaggio che piace come, insomma, come persona, e reputo anche che, insomma, le cose di cui è accusato siano abbastanza di scarso sì, rilievo. Vabbè, è una condanna in primo grado, comunque poi dopo vedremo. Ha una condanna comunque. Sì, non per motivazioni che reputo particolarmente pesante. Però detto questo, chiamavo per una considerazione, siccome ho sentito la frase che decidono gli elettori, ecco, sì, questa l'ho reputata poco opportuna, perché alla fine se è stata fatta una legge, legge che è stata utilizzata, faccio un esempio, per Berlusconi, dove gli elettori comunque lo votavano, sì, sì, da un esponente della sinistra, ripeto, ci aspetterebbe più un rispetto della legge, cioè, ma infatti guardi, sì, poi è una linearità di pensiero più che altro. Va bene Pietro, e questa è un'obiezione, è un'obiezione giusta, detto che la legge Severino poi verrà applicata nel momento, il problema è, e il tema è quando verrà applicata, cioè se deve essere applicata subito ora, visto che lui è il presidente in pectore, o se come sono le letture del presidente dell'anticorruzione Cantone, di Filippo Patroni Griffi, che ha scritto da ex ministro la legge Severino in questione insieme alla Severino, se si debba invece applicare la sospensione quando lui è insediato con la giunta. Sono questioni tecniche, molto anche barbose e noiose. Se prevale questa seconda ipotesi, che è la stessa che dice De Luca, la giunta viene prima da insediare e quindi continuerà il suo vice, poi sarà una questione di sospensione, ricorso contro la sospensione, cose anche un po' lunghe e barbose, ma che succederanno. Pietro, la ringrazio. Domenico da Pavia, buongiorno Domenico. Buongiorno Milan. Dica. Niente, io volevo fare una domanda al governatore della Campania. Ma non c'è, la faccia comunque. Ma penso che mi accorgo. Ma lui cosa ci sta a fare nel PD? Con quelle idee che lui ha, con i suoi programmi e tutto. Ma poi è sicuro che i suoi collaboratori veramente gli vanno dietro? Punto di domanda. Penso proprio di sì. Perché lui praticamente sta dicendo delle cose che veramente meno sono consone anche alle mie, anche se io non sono del PD, no? Nonostante quello, però mi piace il modo come parla. Però non basta, ci vogliono i fatti. Va bene, lo dovrà dimostrare. Questo, come tutti i politici, ovviamente sarà messo alla prova. La ringrazio, Domenico da Pavia. Allora, io vorrei andare a Bologna. A Bologna succede che sabato, non domani, ma sabato l'altro, il 13 giugno, è stato promosso dal comitato No 194, la legge 194 è quella che disciplina l'aborto in Italia. C'è un comitato che si batte per l'abolizione di questa legge, è un comitato quindi anti-abortista, che vuole fare una preghiera o una veglia, non lo so, chiederemo tutto al protagonista, lo chiedo al protagonista di questa vicenda, davanti all'ospedale maggiore di Bologna. L'avvocato Pietro Guerini è presidente nazionale del comitato No 194. Avvocato Guerini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, intanto che veniamo dalla questione, se vuole, più pratica. Che volete fare? Poi ci parla del perché il no all'aborto, ma che volete fare voi? Una veglia di preghiera davanti all'ospedale? Dunque, un sit-in di preghiera che durerà 9 ore, dalle ore 9 alle ore 18, con qualche sospensione. Non preghiamo 9 ore di fila. Vabbè, certo, un panino si potrà mangiare ogni tanto. Sì, anche qualcosa di più, ma è una manifestazione, comunque un evento che noi teniamo da 3 anni, sì, a livello regionale, il primo sabato dei mesi dispari, quindi in 20 ospedali contemporaneamente in Italia. Anche a Bologna. Solo che quest'anno, diciamo che a Bologna per la prima volta facciamo la 9 ore nazionale e 9 regionale. Sì. Il prefetto starebbe decidendo di non concedervi l'autorizzazione, perché sa cosa, Guerini, suona un pochino come una provocazione, cioè pregare si può pregare, però ci sono le chiese per pregare. Si può pregare, cioè perché andare lì davanti a un ospedale? Che messaggio volete portare? Evidentemente perché negli ospedali avviene la macellazione dei concepiti, che vengono soppressi ed eliminati, non vengono eliminati in chiesa. Ah, quindi voi andate lì proprio a portare la preghiera là dove avviene, com'è che la chiamata? La macellazione, la soppressione oggettiva di un essere umano, sì, durante la gravidanza, perché questo, l'aborto volontario, è Lei la legge 194 immagino la conosca molto bene, no? Accidenti, sì. All'articolo 4 lei, come sa, la legge nasce per tutelare, certo che c'è una soppressione di una vita, questo nessuno lo può negare, ma perché? Perché portare avanti la gravidanza comporterebbe un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, questa è la motivazione. Io la invito cortesemente, sì, a leggere bene l'articolo 4, perché dice che nei primi 90 giorni di gravidanza, sì, si può praticare l'aborto anche per mere ragioni economiche, morali, sociali e familiari, quindi per qualunque motivo. Anche le condizioni economiche. Dopo il 90esimo giorno, allora si cerca di restringere dal punto di vista teorico, sì, la possibilità di fare un aborto volontario, ma in realtà è facilmente aggirabile. la legge, perché si parla di processi patologici in atto, tali da incidere. Vabbè, ma voi perché volete, voi vorreste cancellarla, cioè voi vorreste l'aborto, considerarlo come in Irlanda, illegale? Guardi, ha proprio citato il paese giusto, anche se nel periodo sbagliato. Ecco, perché lei dice lì fanno le coppie omosessuali, il sì, matrimonio. Poi è un altro tema che a me non interessa, però voglio dire, il periodo è sbagliato, però il modello giuridico è assolutamente perfetto. All'articolo 40 della Costituzione irlandese il concepito viene equiparato a un essere umano e si può praticare l'aborto volontario solo nel caso di grave pericolo di vita della madre che porti a termine la gravidanza. Perfetto. Ed è esattamente quello. Senta, mettiamo il caso delle lasciamo stare le condizioni economiche, altre, mettiamo il caso di una donna che, se porta avanti una gravidanza, subisce appunto un serio pericolo per la sua condizione fisica o psichica. Questa a lei non interessa? Dunque, allora, cos'è l'emicrania? È sufficiente? No, sufficiente. Adesso. Lei non è mai stato incinta, neanch'io. No. Sì, non ha mai portato in grembo un bambino. Sono tutti dei pretesti, in realtà, con i quali si vuole affermare il diritto di un essere umano di sopprimerne un altro con l'aiuto di altre persone. E siccome lo Stato tutela il più debole, deve tutelare il concepito e le concepite, che sono i più deboli. Io ricordo che dal 78 in poi, secondo i dati ministeriali ufficiali, sono stati praticati, da quando è entrata in vigore questa legge, 6 milioni di aborti. Sì. Quindi 6 milioni di persone non sono state legalmente soppresse. Ecco. La metà di queste statisticamente sono donne, perciò 3 milioni di donne sono state soppresse durante la gravidanza, e questo è un gravissimo, però, avvocato enorme Guerini, caso di femminicidio, anche se non praticato da uomini, ma ci sono 3 milioni di donne che sono mancate. Le chiedo questo, avvocato, mi perdoni, perché siamo già entrati sulla questione aborto sì, aborto no, le sue posizioni sono molto chiare, però cerchiamo di capire che cosa succederà sabato. Se, io le voglio far anche ascoltare il sindaco di Bologna, Virginio Mero, l'ha intervenuto ieri a Effetto Giorno al microfono di Simone Spezia, senta che ha detto il sindaco, il suo sindaco anche, il sindaco di Bologna. Il prefetto ha proposto un provvedimento che come sindaco condivido, che riguarda gli ospedali, le case di riposo. Il provvedimento si limita a dire che non è opportuno organizzare manifestazioni davanti a questi luoghi. Francamente lo trovo saggio, non si nega a nessuno la libertà di opinione, si può manifestare da molte altre parti in città, ma tutelare gli ospedali e le case di riposo da manifestazioni politiche che poi hanno anche sempre contrapposizioni, credo che sia un provvedimento saggio che non riguarda la libertà di opinione. Noi non possiamo continuare a assistere in luoghi dove ci sono malati e familiari che hanno ben altri problemi a eventi di questo tipo che bloccano le situazioni, scatenano reazioni opposte. Ognuno potrà esprimere liberamente la propria opinione, ma per favore lasciate in pace le case di riposo e gli ospedali. Ha capito, avvocato Guerini. Innanzitutto devo premettere che non sono di Bologna. No, vabbè. È un comitato nazionale che ha 25.000 iscritti in tutto il territorio nazionale. Però il sindaco di Bologna la vede così. Ma se il prefetto vi vietasse davvero di fare questa manifestazione, voi che farete? Dunque, allora io anzitutto lo denuncerò in sede penale per abuso d'ufficio, poi per tutti gli altri reati configurabili. In secondo luogo impugnerò il provvedimento avanti il TAR. Questo lei è avvocato, è facile questa cosa. E difatti lo farò. E lo farà. Denuncerà, ma denuncia anche il sindaco? Denuncio tutti i firmatari di questo provvedimento. Il sindaco ha altri problemi, leggo stamattina che non dovrebbe essere ricandidato il prossimo anno a Bologna. Vabbè, questo non lo sappiamo, sarà un problema. Questo lo dicono i giornali, poi io non lo so. Però è chiaro che questo provvedimento, se lei ben ha sentito, no? Sì, verrà sì, preso all'esterno degli ospedali, sì, all'esterno dei centri. Ma avvocato, perché è un po' è una provocazione, cioè lei si metta nei panni di una donna che in quel momento sta vivendo il dramma dell'aborto. Siamo d'accordo che è un dramma anche per la donna che decide consapevolmente di abortire. Guarda che è un dramma, infatti, cioè, vogliamo toglierla da quel dramma. Sapesse, ma guardi che non è che la deve redimere, cioè, non è che devo salvare la vita del più debole. Se lo Stato non tutela il più debole, perché facendo stare male la donna, cioè facendola riflettere su quello riflettere, che sta facendo. Ma avrà riflettuto molto, guardi, ma prima di andare ad abortire c'è un clima culturale tale in Italia che si vuol far passare questo come un diritto e non si vuole assolutamente... Ma è un diritto perché c'è una legge. Ma anche le leggi razziali erano delle leggi e poi per fortuna sono state abrogate. Però avvocato, lei perché dovrebbe lei o le persone come lei redimere una donna che ha fatto il suo percorso, ha deciso, immagino nel dramma, nella consapevolezza di fare questo passo, però non ha meditato abbastanza, devo farla meditare di più. Io non voglio redimere nessuno, io voglio che lo Stato, il mio Stato, tuteli la vita degli esseri umani. E questo l'ha già detto, infatti lei si batta per l'abolizione della 194. Non proprio di redimere nessuno, assolutamente. Ma lei infatti si può... Lei si può legittimamente battere. Lei si può legittimamente battere per l'abolizione della 194, ma fin tanto che c'è una legge, voglio dire, sì, potrà fare le preghiere, ma insomma sembra un po' una provocazione questo. E comunque lei denuncerà tutti coloro che impediranno questo tipo di veglia. Va bene, avvocato Guerini, la richiameremo. No, le chiedo questo, scusi, in conclusione. In caso di una donna che subisce una violenza, rimane incinta, l'aborto è consentito per lei? Dunque, non si deve aggiungere ad una violenza ancora più grave e definitiva. Al limite può farlo adottare il bambino. Cioè, deve portare avanti la gravidanza. Anche quelle che hanno subito una violenza quando è nato il bambino se lo tengono ben stretto, perché si rendono conto che è una grandissima gioia che quella persona sarà più vicina a loro di quanto non lo sono state le persone che l'hanno consigliata. Non è un ricordo a vita della violenza. È un modo per avere qualcuno che le vuol bene, a differenza di coloro che le hanno consigliato di abortire. Quindi anche in caso di violenza lei lo vieterebbe per legge? Assolutamente sì. La ringrazio, avvocato Guerini, buona giornata. Ovviamente torneremo a parlare con lei. L'avvocato Pietro Guerini è presidente nazionale del comitato No 194. Il traffico. Allora, devo dire che ha spaccato molto le coscienze e i messaggi, anche chi dice grandissimo avvocato e invece dà a me del coglione fazioso, va bene, grazie, non ricambio perché io sono gentile, al contrario tuo, caro ascoltatore, ascoltatrice, secondo me è più un ascoltatore, uno è più un uomo, uno così, mentre chi dice questi sono peggio dei talebani, insomma, come vedete, bianco o nero. Vorrei sentire qualche ascoltatore. Grazia da Bologna, proprio Bologna, grazia, buongiorno. Buongiorno, chiamo la provincia di... Ah, dalla provincia, va bene. In maniera provocatoria, sì, volevo appunto chiedere come mai pensare di vietare una veglia, sì, un festatore, chiamiamola veglia perché è stata, sì, definita così, e altre che hanno... Però grazie al cellulare, il cellulare va un po' e viene, cioè mi faccia capire perché si vuole vietare questa veglia. E invece magari se ne sono concesse altre, giustamente, se ne sono perché hanno creato magari disagi, vediamo gli ultimi anni. Sono pro entrambe, nel senso che credo che... Cioè lei non capisce perché si debba vietare questa veglia. Guardi, il prefetto, che non ha ancora deciso ma sta valutando, reputa, e anche il sindaco Mero l'abbia sentito e condivide, che andare a fare una veglia di preghiera là davanti all'ospedale, dove si svolgono anche le interruzioni di gravidanza, sia una sorta di provocazione. Questo poi vedremo se in settimana sarà così. Sentirei Paolo da Milano, buongiorno Paolo. Sì, buongiorno Miriam. Guardi, l'argomento è molto delicato, però mi permetta una sottile ironia, perché l'avvocato suo ospite prima ha collegato l'aborto di 3 milioni di donne come a 3 milioni di casi di femminicidio. Sì. Allora io mi domando, se ci fossero stati, non so, 1 milione di potenziali omosessuali, se questo era un caso di preventivo di omofobia. Sinceramente bisogna trattare questi argomenti un pochino più seriamente. Lei dice provocazione per provocazione. Paolo, per l'avvocato sono 3 milioni, o meglio 6 milioni di vite non nate, di cui 3 milioni statisticamente 50-50 femmine, donne, e quindi 3 milioni di femminicidi. Questa è la sua posizione, che io non condivido ovviamente, però Paolo, mi pare che anche lei, ma siamo qui a dibattere. Carmelo, sempre da Milano, buongiorno Carmelo. Sì, buongiorno. Senta, guarda, io semplicemente premetto che non voglio assolutamente prendere posizione sul fatto di essere favorevole o meno all'aborto, sì, tema assolutamente importante, quindi non entro minimamente nel merito, ma... però constato ancora una volta che in Italia certi valori valgono solo in determinate circostanze e quindi sono a senso unico. Quindi la libertà di manifestare, sì, che è uno dei baluardi di questa Repubblica, deve essere consentita. Deve essere, ma guardi che però la questione del prefetto, mi scusi Carmela, che dice manifestino come anche il sindaco dove vogliono, preghino, dove, ma non davanti a un ospedale, cioè c'è il rischio dell'ordine pubblico che magari non viene tutelato, Carmelo, questa è la questione. Cosa ridicola, perché noi sappiamo cos'è una veglia di preghiera, cioè, sì, ma sappiamo cosa, che, ma certo, che male può fare, ma no, ma quante, chiaro, quante banche possono essere sfasciate, no, con una nessuno, veglia di preghiera. Nessuno, a Milano, il mese scorso c'è stato il No Expo a Milano, è stata devastata. Lo sappiamo, siamo di Milano. E il dibattito era su che cosa si è tenuto, hanno messo in croce il ministro, sì, Alfano, nessuno che si è mai permesso di mettere in discussione il fatto che quelle manifestazioni lì sistematicamente finiscono così. Mm-hmm. Carmelo, guardi, la interrompo perché sennò non c'è spazio per la nostra segreteria telefonica. Torneremo su questo tema, tanto è settimana prossima e quindi vedremo. Come detto, abbiamo una segreteria telefonica, questa! Rosica, Rosica, Antonello Venditti, Rosica, e già si vede la crescita sotto una tinta tragica. Antonello, non ci crede nessuno che c'hai i capelli neri. Oh, bello! Milan, fatti aggiustare e pulire i filtri dell'aria condizionata, così ti passa il mal di gola. Milanese, porca miseria, non siete nemmeno capaci a pulirvi i filtri. Carminati e la sua banda sono più amici di Casa Pound o sono più amici dei Rom? È una bella domanda. Vorrei sentire qualche risposta da parte di questi signori che inveiscono contro gli zingari. È vero che tu non li vuoi ammazzare i pensionati e fai solo morire di fame. Milan, non andare in ferie quest'anno, che la mattina servi. Che sono vecchio e mi tiro in piedi. Oh, abbraccio quest'anziano e smettiamo. Non è vero che voglio far morire gli anziani, smettetela con questa stupidata che non è così. Vi devo salutare tutti con Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè. L'appuntamento ve lo diamo a lunedì con grandi auguri alla Juve, ovviamente è una squadra italiana, augurissimi ai bianconeri, grande vittoria in vista a Berlino.